È con noi il musicista Teo Teardo che sarà in scena domenica 29 aprile al Nuovo Cinema Palazzo a Roma con Viaggio al termine della notte a sostegno di Radio Onda Rossa. Teo, ben ritrovato. Eccoci qua, buondì a voi, buon pomeriggio. Allora, l'altro giorno abbiamo sentito Elio che ci ha raccontato che vi hanno proposto un progetto e voi vi siete ritrovati su un libro che avevate tutti e due e avevate apprezzato. Sì, e credo anche parecchio apprezzato perché ormai sono 10 anni che portiamo in giro questo spettacolo e non riusciamo più a liberarcene, quindi probabilmente qualcosa di forte deve essere successo. Senti, Teo, lo chiedo anche a te, cos'è che ti aveva così attratto del romanzo? Sembra che, almeno per quanto mi riguarda, è uno dei libri per me personalmente più importanti del Novecento. È un capolavoro della letteratura. E tocca una serie di temi fortissimi, partendo comunque da una forte disillusione per il consorzio umano, però tocca in modo molto lucido la follia della guerra. E la guerra continua a esistere nel mondo, continua a riproporsi in continuazione, non c'è mai stato un momento in cui non ci fosse un conflitto da qualche parte. E è curioso vedere come Fellini riesca a rappresentare in maniera talmente lucida e efficace l'inutilità totale, perché poi continuiamo a parlare di guerra, però c'è veramente qualcosa di totalmente inutile dietro la guerra. Arrivano questi conflitti, poi spariscono, si ripropongono da qualche altra parte e quello che rimane dopo è soltanto distruzione. Ma questo continua a non rappresentare, come dire, qualcosa che si può superare, no? Ci incastriamo sempre nello stesso problema e le guerre si ripetono, si ripropongono e non siamo ancora capaci di imparare da quello che è stato. Ritorniamo esattamente sempre nello stesso punto per problemi diversi, ma ci ritroviamo lì. Penso alla follia della guerra nel Medio Oriente in questo periodo e siamo ancora lì a dirci le stesse cose. E quindi per me quel libro lì è molto importante anche per questo, non solo per questo ovviamente. Senti Teo, come avete lavorato sulla messa in scena? Non è una messa in scena, abbiamo lavorato semplicemente così, non è una messa in scena, non è una rappresentazione, è più un'evocazione. È un altro modo di pensare al teatro, che parte dal suono della voce di Elio, che è il punto dove voce e musica si incontrano e lì dentro prende forma il testo, ma prima è una questione proprio sonora, marcatamente sonora. Senti, rispetto, ecco, al mondo bellico, che lavoro sui suoni hai fatto, sulle musiche? Lo facciamo ormai da 10 anni questo spettacolo. E dal punto di vista musicale credo che sia cambiato almeno una dozzina di volte. E quindi è quasi inutile che ne parli di cosa è successo nella musica, è un cambiamento costante. Per me è stato l'unico modo per mantenere vivo qualcosa facendo in modo che non diventasse intrattenimento, ecco. Ha molto più la dinamica di una performance, di un concerto, e non c'è una musica statica che va sempre nello stesso modo, è qualcosa che cambia costantemente. L'unica Sì. cosa costante di questo spettacolo è il cambiamento. Però nel pensare alla guerra, come la suoni la guerra? Non suono la guerra, suono la follia di chi la pensa. La guerra non è uno spettacolo sulla guerra, questo. E non è neanche musica di guerra. Non è, come dire, una rappresentazione, non è un commento musicale. C'è più una riflessione sulla follia che mantiene l'uomo esattamente nello stesso punto e non riesca a imparare da se stesso, dalla storia, da quello che è accaduto. Senti, com'è stato poi l'inserimento degli archi delle tre musiciste? Non è un inserimento, è proprio una scrittura che prevede anche gli archi ed è musica che è scritta anche tra gli archi. Non è che a un certo punto uno dice, vabbè, ci infilo due zampogni e una cornamusa perché vado a suonare una festa irlandese o scozzese. No. Gli archi sono proprio parte del mio modo di scrivere la musica e quindi non ho mai dovuto fare degli inserimenti, no? Non è che ho una canzone pop e dico vabbè, qui nel ritornello faccio un attacco d'archi così faccio piangere le mamme. No, non è così, è una scrittura che contempla gli archi proprio fin dall'inizio e quindi non c'è un problema di inserimento. Anche se all'inizio non c'erano loro tre. Sì, inizialmente proprio cominciato col violoncello. Sì, sì. Poi è cambiata la musica dello spettacolo e l'organico si è dovuto ampliare perché la musica era, prevedeva tre archi, due in base alle situazioni. Senti, è tutto in divenire sul palcoscenico o c'è anche una sorta di preparazione tra tutti voi? No, no, noi abbiamo proprio una traccia che seguiamo. Okay. Ma poi ci sono tutta una serie di appuntamenti dove ci incrociamo, ma poi ci sono diverse varianti che tengono sempre in vita lo spettacolo. Senti, cosa ti ha sorpreso dei riscontri con il pubblico portandolo in giro per anni in tutta Italia? Il pubblico è molto più intelligente di quello che i direttori artistici di solito pensano. Le persone sono attente, sono preparate, sono molto curiose e si aspettano molto, e di solito si aspettano molto di più rispetto alla solita sbobba precotta che gira in molti teatri italiani. È molto interessante girare nei teatri, soprattutto per un periodo di seguito, e ti accorgi che più o meno c'è la stessa cosa ovunque, come se ci fosse... Mi ricordo un po' la pastiglia dei militari, quando ho fatto il militare. Se mal di piedi, mal di schiena, mal di denti, c'era soltanto una pastiglia per tutto. E che poi abbiamo scoperto essere un tranquillante. Ecco, spesso quando vedo la programmazione in giro per i teatri ho quella sensazione della pastiglia per tutti. Ecco, in questo senso, in quali luoghi, oltre ai teatri, lo avete portato? L'abbiamo fatto nelle situazioni più impensate, una volta anche in una zattera ormeggiata in mezzo a un lago, e una volta di fianco in un giardino in mezzo a una cascata, e anche nei teatri tradizionali. L'abbiamo fatto in molti posti, sono estremamente felice tra l'altro di tornare, comunque sempre per questioni di supporto, di beneficenza al Cinema Palazzo. Sono contento che ritorniamo lì, lo rifacciamo lì lo spettacolo, perché per me ha proprio un senso farlo, per un motivo del genere, per essere vicini a Radio Onda Rossa, proprio per essere vicini, a questione proprio di prossimità, questa di vicinanza, che anche se facciamo, come dire, tragitti diversi, siamo come due antenne che ogni tanto quando trasmettono sono sulla stessa frequenza, sulla stessa onda. Senti, cambia anche in relazione ai luoghi dove si svolge? Sì, sì, sì, perché il suono dell'ambiente ha un'importanza proprio sulla musica che faccio, e quindi c'è sempre uno stabilire un rapporto col posto in cui ci troviamo. E chiudiamo con, chiaramente lo accennavi prima, a Radio Onda Rossa. E cosa ne pensi di una radio libera dal 1977, che comunque continua con una sua coerenza, ad esempio senza pubblicità ma autofinanziandosi? Non serve pensarne, l'importante è che continui a esistere e che continui a essere esattamente quello che è, o soprattutto quello che gli va di essere. Cioè non mi aspetto qualcosa da Radio Onda Rossa, nel senso, non è che mi aspetto che sia sempre quello, mi aspetto che continui a esistere, quello sicuramente, e che cambi riflettendo i tempi che vive, no? Sì. Non credo che sia necessario seguire una formula, l'importante è che qualsiasi identità sia quello che si sente di essere in quel momento lì, cambiando in base a quello che ritiene necessario nel tempo in cui vive. Io mi immagino e auguro altri 3.000 anni di vita a Radio Onda Rossa, in qualsiasi forma, stato, solido, liquido. L'importante è che nell'etere continuino a circolare dei messaggi e a passare. Ecco. Bene. Allora Teo, ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, domenica 29 aprile alle ore 18, viaggio al termine della notte. Un abbraccio e ci si vede lì. Dico venite, non è per noi, ma è per Radio Onda Rossa, per cui per cortesia venite. Ciao.